E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana, breve come durata perché lunedì era festivo, lunga e intensa quanto notizie. Insomma, si chiude per le borse come si era aperta, ahimè, meno 3,15% in questo momento Piazza Affari, meno 2,30 sia Parigi che Francoforte, a dimostrazione che l'euro, quanto perlomeno ha sfighe, è una moneta veramente unica, nel senso che Londra invece perde solo lo 0,90%. A mio avviso è un ulteriore segnale del fatto che nessuno si può immaginare o possa immaginare di tirarsi fuori da quello che sta capitando di nuovo sulla moneta unica e sui debiti dei paesi più a rischio. Mi riferisco chiaramente alla Spagna e all'Italia e agli spread, ossia quanto costa a questi due paesi trovare finanziatori per il proprio debito, ai CDS, ai credit default swaps, ossia ai premi che si pagano sulle polizze per assicurarsi contro il rischio, diciamo, fallimento di un paese, sono tornati livelli alti, molto alti, sia per Francia che Spagna, non a record, ma quasi. Ancora la debolezza di tutta l'Europa sta a significare che in questo momento, come molti commentatori hanno scritto, il tema non è tanto la tenuta della Spagna, non è solo la tenuta della Spagna, la tenuta dell'Italia, il tema è l'Europa che non si presenta mai unita, che non lascia capire che cosa ci sarà dopo i tagli, dopo la cura di rigore, dopo le medicine, dopo gli antibiotici, quali vitamine verranno date. Devo dire che poco mi sembra uscito oggi, anche per quello che riguarda casa nostra, dal post vertice del Consiglio dei Ministri, quello in cui dovevano vedersi i ministri solo economici a partire da Corrado Passera e Elsa Fornero. Questa è la situazione internazionale di cui parleremo a lungo. Ci sono poi dei casi solo italiani e qui insomma la lista diventa lunga. Aiutiamoci con Carotone, perché oggi veramente c'è un po' di tutto. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua. Futuro incerto, felicità a momenti e felicità sicuramente non per gli esodati, perché continua questo balletto, a mio avviso, inaccettabile tra le dichiarazioni del ministro Fornero, del ministero. 65.000, avete visto gli esodati, e le dichiarazioni di due giorni fa del direttore generale dell'INPS, che stimava in 135.000, le dichiarazioni dei sindacati, che definiscono inaccettabili i numeri forniti dal ministero. L'abbiamo detto più volte, ne parleremo anche in apertura, la linea nostra è molto semplice. Siamo sicuri che è difficile scoprire e trovare il numero di quante persone si sono trovate per via della riforma delle pensioni che ha innalzato l'età pensionabile e si sono trovate in quella terra di nessuno tra coloro che sono sospesi perché hanno lasciato il lavoro accettando lo scivolo aziendale, quindi gli incentivi a lasciare il lavoro, erano convinti di andare e questi scivoli, questi incentivi dovevano coprire il periodo da lì alla pensione e poi si ritrovano invece con niente, con la terra di nessuno. È difficile capire le stime, però porca miseria, ministro Fornero, bisognava pensarci prima di fare la riforma, non si può scoprire dopo aver innalzato l'età pensionabile che c'è una cifra di decine di migliaia di padri di famiglia, madri di famiglia che in qualche modo non avranno nulla e aspettare mesi per avere una cifra che poi viene contestata dalla stessa INPS. Mi dispiace, ma oggi la leader della CGIL, Susanna Camusso, ha ragione. Se ha ragione il ministro Fornero, si devono dimettere i vertici dell'INPS, quei vertici che ci costano 2.300.000 euro di stipendi l'anno, a partire dal presidente Mastropasqua che ha decine di incarichi, perché le cifre non tornano, 65.000 da una parte dice il ministero, 135.000 dice l'INPS, boh, non possiamo mica contarli tutti. È vita intensa. Felicità. E poi l'IMU, anche qui non si capisce, lunedì prossimo il relatore al disegno di legge fiscale Gianfranco Conte presenterà i suoi emendamenti sull'IMU. Alcune proposte sono già state anticipate dallo stesso Conte, un pagamento IMU in tre rate, comunque è contrario anche a modificare la normativa IMU per gli anziani che sono nelle case di riposo, le fondazioni bancarie sono un falso problema. E poi però attenzione, perché il presidente nazionale dell'ANCI del Rio, cioè dei comuni italiani, dice attenzione, se l'IMU verrà rateizzata solo sulla prima casa non avrà grandi effetti. Se invece il Parlamento sta pensando a rateizzare anche l'IMU sulla seconda casa, visto che poi quei soldi vanno ai comuni, l'impatto sui comuni sarà devastante. Continua infatti il presidente dell'ANCI, per la prima casa un'eventuale rateizzazione tra giugno e settembre non dovrebbe avere grandi effetti, perché si anticipa semplicemente un pezzo di dicembre e si posticipa un pezzo di giugno. Se invece andiamo a rateizzare anche l'IMU sulla seconda casa, la situazione diventa devastante. Sentiamo a questo punto il relatore Gianfranco Conte del PDL, intervistato poco fa dal nostro Vincenzo Miglietta, a chiarire quali saranno le modifiche che presenterà lunedì appunto al disegno di legge fiscale. Questo è un momento di particolare crisi, quindi cioè, l'idea, considerando anche l'aumento che ci sarà su questo posto, è quella di farla pagare in tre rate. Insomma, stiamo ancora lavorando per la predisposizione dell'emendamento, ma sostanzialmente dovrebbe essere ripartita un terzo al 16 giugno, un terzo al 16 di settembre e l'ultimo terzo con il conguaglio a dicembre. Per quanto riguarda invece anziani e case di riposo, ci sono novità? No, guardi, io personalmente ho avuto già modo di esprimere il mio parere, è una norma che sostanzialmente si presterebbe a fenomeni elusivi e anche gravi sotto il profilo sociale. Non vorrei che insomma, poi alla fine diventasse venisse utilizzata per spingere gli anziani in case di riposo, liberare le case e poi magari affittarle a nero, insomma, francamente non credo che sia questa la strada. Ci sono già i comuni, l'associazione dei comuni che è preoccupata proprio per questa rateizzazione, dice sarebbe devastante, dice Del Rio, questa ipotesi, soprattutto per l'IMU sulle seconde case. Lei si sente di dire qualcosa su questo? Ma guardi, io personalmente non mi sento di anticipare niente, ma naturalmente l'obiettivo principale è quello di intervenire sulla prima casa. Adesso tecnicamente bisognerà vedere come scrivere la norma, ci stiamo lavorando in queste ore e la presenteremo lunedì. Possiamo ricordare che tempi abbiamo davanti a noi affinché poi l'IMU sia effettivamente una cosa certa? Ma guardi, noi andremo in aula la prossima settimana, poi il provvedimento con le modifiche che saranno apportate sarà inviato al Senato, che dovrebbe convertirlo probabilmente entro il 25, quindi insomma il decreto in sé scadrebbe il 2 di maggio se non ricordo male, quindi sostanzialmente il percorso è già definito. È un mondo difficile. Vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. E allora, l'IMU, che non si capisce bene se ci sarà a rate sulla prima casa, poco impatto, o a rate anche sulla seconda casa, molto impatto, devastante per i comuni. Gli esodati, appunto coloro che sono sospesi, no? Perché non sanno cosa capiterà. E alcune risposte anche ai vostri sms. Io non ho detto che la leader della CGIL, la Camusso, abbia sempre ragione. Ho detto che ha ragione nel dire se La Camusso ha detto: se ha ragione il ministro Fornero, deve dimettersi il dirigente dell'INPS, perché le cifre non tornano. C'è 135.000 dell'INPS e 65.000 del Ministero del Lavoro, quindi il ministro Fornero. Di mezzo vorrei far notare che non c'è così un calcolo statistico banale. C'è la vita di 70.000 padri o madri di famiglia in questo periodo che rischiano di non avere né la pensione né lo stipendio, ma ci rendiamo conto? Se vogliono contarli, dice giustamente un ascoltatore, facessero un censimento via web, ma ci sarà un modo nel 2012 per sapere quante persone hanno accettato lo scivolo, sono fuori dal lavoro, dovevano andare in pensione e poi non ci vanno più perché gli avete aumentato l'età pensionabile? Nel 2012? Non so, usiamo le raccomandate, i piccioni viaggiatori? È futuro incerto. Ma non è tutto, perché c'è poi il tema, qui dedicheremo, come facciamo ormai da tempo, la seconda ora del programma, c'è il tema degli imprenditori disperati. Allora, a fronte di, a mio avviso, una buona notizia, cioè che lunedì partirà, e la seguiremo come Radio 24, un'associazione familiare degli imprenditori suicidi. Ma io dico, ma se qualcuno me l'avesse detto qualche anno fa che nasceva l'associazione degli dei familiari degli imprenditori suicidi, lo prendevo per pazzo. E invece purtroppo bisogna accogliere con comunque soddisfazione il fatto che Adiconsum e Fica CISL diano vita all'associazione dei familiari degli imprenditori che si sono suicidati. È un'iniziativa che nasce per portare l'attenzione verso le vittime dell'indifferenza. Nasce nel Veneto, che è tra le regioni quella in questo momento dove purtroppo si registra il maggior numero di casi, al centro parrocchiale San Sebastiano di Vigonza a Padova. La stessa sala dove due settimane fa Laura Tamiozzo, 29 anni, figlia dell'imprenditore suicida vicentino Antonio Tamiozzo, aveva letto la lettera da imprenditrice a imprenditrice scritta di suo pugno e indirizzata a Flavia Schiavon, figlia di Giovanni Schiavon, titolare dell'impresa edile Eurostadio 90 di Vigonza, morto suicida a dicembre. Allora, io ero piccolo, ma ricordo che durante il terrorismo c'era l'associazione dei familiari delle vittime del terrorismo, poi ci fu l'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, di Piazza Fontana e quant'altro. Quando nascono le associazioni dei familiari vuol dire che siamo di fronte a una tragedia, non a casi isolati di suicidi. Piccola vita e il nostro grande cuore. E questa era la buona notizia. La cattiva... La cattiva è che se ne è ammazzato un altro, a 42 anni... aveva perso il lavoro da alcuni mesi, residente in provincia di Firenze, si è lanciato, lo ricordava anche il nostro GR, nei pressi della stazione di Il Netto, nel comune di Sesto Fiorentino. Era un dirigente di azienda che aveva lavorato per alcune società toscane. Lascia anche una moglie e una figlia di 13 anni. Calma, sonata di Bento. E Federcontribuenti, che avremo ospite, segnala 18 suicidi per debiti nel 2012 a causa della crisi economica. E ha presentato a questo punto anche un ricorso alla Procura di Roma, un esposto, scusatemi, alla Procura di Roma, perché chiede di accertare se chi è preposto ad evitare questa mattanza sociale non lo sta facendo. Ministro Passera, lei le conosce bene le banche, ha diretto la principale banca italiana per molti anni. Quand'è che fate partire questo tavolo con le banche? Troviamo una soluzione. Ho visto che c'è un progetto interessante per dare agli imprenditori che vantano 70 miliardi di euro di crediti, girare questi crediti alle banche, o meglio i debiti dello Stato alle banche, le banche pagano gli imprenditori, via così. Quand'è che governatore Zaia, governatore Formigoni, tra un'inchiesta giudiziaria e un'altra, quando è che lanciate il numero verde? Vale anche per l'Emilia, per il Piemonte, Cota, tutti, Polverini, un numero verde per gli imprenditori pagato dallo Stato, mica se devono pagare pure un numero verde, no? Magari gratuito anche, per assistere psicologicamente queste persone. Dobbiamo fare il bollettino ogni settimana, noi lo facciamo, eh? Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di Bento. Nostra piccola vita. Beh, poteva andare anche peggio, sì, certo, poteva essere aumentata la benzina con le accise, infatti così è successo, 5 centesimi in più anche sulla benzina, poteva andare anche peggio. Potrebbe essere peggio. Ecco, potrebbe piovere. Le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria, per quello che riguarda l'oro e il petrolio siamo fermi, per fortuna meno lì. La Cina invece ha diffuso un dato di un rallentamento economico, ma in realtà è una crescita dell'8,1% nel primo trimestre, più bassa delle attese. Delle borse abbiamo detto, ne parleremo ampiamente fra pochi minuti. L'Europa, dopo il dato soprattutto sulla fiducia americana, ma non solo, è calata pesantemente, ma sopra l'altro elemento, come ricordavamo, si chiama credit default swaps, ripeto, i premi che si pagano sulle polizze per assicurarsi contro il rischio di insolvenza di uno Stato, sono saliti a 491 punti base quelli spagnoli, il record dello scorso novembre, ce lo ricordiamo novembre, vero? Ecco, in Spagna toccarono i 491 vuol dire che siamo a un passo dal record, vuol dire che il premio che si deve pagare per assicurarsi sulla Spagna ha toccato i livelli massimi. Immaginate il premio che si paga, che paga un automobilista, più alto è, più vuol dire che è rischioso l'automobilista, che è rischioso assicurare quella persona. Ancora, i prestiti che le banche centrali europee, che la Banca Centrale Europea ha fatto alle banche spagnole hanno toccato la cifra record di 227 miliardi di euro a marzo. Nel frattempo, per quello che riguarda le banche italiane, il presidente dell'ABI, Giuseppe Musseri, ha detto: la stretta al credito è un tema che affronteremo col ministro Passera nella prossima settimana. L'idea è stanziare un primo plafond di 5 miliardi di euro, credo, sulla liquidità della Banca Centrale Europea per investimenti a 5 anni, per lanciare un segnale chiaro di speranza alle imprese. Benissimo, la prossima settimana incontratevi e poi subito l'annuncio, per favore, subito, perché poi anche i meccanismi tecnici hanno bisogno del loro tempo. Se ho ben capito, il plafond di 5 miliardi a 5 anni vuol dire la possibilità per le banche di, per lo Stato scaricherà parte dei suoi debiti su questo, di elargire 5 miliardi a 5 anni a, immagino, imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Allora, per quello che riguarda la produzione industriale, meno 7% nel mese di febbraio, anche siamo andato peggiore dal 2009, no, nel senso, se qualcuno avesse ancora bisogno di avere altri dati sul fatto che le imprese stanno ferme, il dato è impressionante, meno 7% quasi a febbraio, e il Centro di Confindustria stima una variazione nulla a marzo. E ancora però qualche buon dato arriva da un rapporto Unioncamere Mediobanca, in cui diceva che le medie imprese italiane prevedono, le medie imprese, cioè vuol dire quelle dai 50 ai 250 dipendenti, prevedono un aumento del fatturato, il 38% di queste prevedono 2012 in crescita, che è una buonissima cosa, però purtroppo il 95% delle imprese italiane hanno meno di 15 dipendenti. Il problema si sta collocando tutto lì, perché chiaramente le medie imprese, le cosiddette multinazionali tascabili, hanno agganciato l'export. Quello che vediamo è chiaro che lì riescono con qualche sforzo, non da poco, a stare nella filiera lunga dei mercati stranieri. Il dramma si ha per i subfornitori, i fornitori, quindi piccoli, piccolissimi, e per le piccole imprese che erano legate al mercato interno. Leggo molti messaggi che dicono: beh, non è che possiamo mantenere il sistema di prima. Avete ragione, cioè, lo diciamo spesso che probabilmente quel mondo lì andrà via via a cambiare, ma non si può cambiare tutto in una volta. Accompagniamoli, no? E il ministro Passera dice: occorre accelerare gli sforzi per uscire dalla crisi. Noi dobbiamo rimettere in moto crescita, dobbiamo accelerare l'uscita dalla recessione che ormai da parecchio tempo avvolge il nostro paese, battere le previsioni, fare in modo che l'Italia esca dalla recessione prima di quanto agenzie, studi, centri di ricerca continuino a dire. Dobbiamo farlo per creare posti di lavoro. Questa è l'urgenza fondamentale, perché il disagio occupazionale e quindi molto più che economico che si sta creando nel nostro paese e in Europa in generale è di gravissima serietà. Quando parlo di disagio sociale, dobbiamo saperlo tutti, non parliamo soltanto di disoccupati, perché quella certo è già una dimensione enorme, 2,2 milioni, 2,3 milioni, ma è soltanto la crosta statisticamente più visibile. In realtà il problema che ci dobbiamo porre, su cui dobbiamo poi misurarci, è molto più ampio. Gli inoccupati, cioè coloro che non cercano neanche più occupazione e quindi non sono statisticamente disoccupati, coloro che hanno formalmente ancora un lavoro ma sono sospesi dall'occupazione. E quindi, ministro Passera, e quindi non riusciamo nemmeno a stabilire quanti sono gli esodati? Cioè, allora, siamo qui, glielo garantisco, pronti a fare l'applauso, i cori, tutti gli effetti speciali di cui disponiamo in regia, se la settimana prossima con le banche troverete un primo accordo e si sganceranno, si libereranno 5 miliardi di euro, massimo applauso. Ma in questo momento, dopo che ci ha chiarito che il problema non sono solo i disoccupati ma anche gli inoccupati, nel giorno in cui il ministro Fornero ci fornisce cifre diverse da quelle che risultano agli altri sugli esodati, che cosa dobbiamo pensare? Che cosa dobbiamo pensare di un governo che abbiamo sempre difeso, perché ha fatto, e lo ripeto anche a chi scrive, non abbiamo cambiato idea. Il governo ha fatto bene a muoversi in quel modo a novembre e a dicembre. Era fondamentale andare con una manovra di impatto immediato, anche come immagine, se mi permettete, verso i mercati e gli investitori esteri. Tutto si è un po' arenato con sta riforma del mercato del lavoro, ma soprattutto la fase 2, la fase 1 va bene. Confermo che andava fatta così, andavano alzate le pensioni, se l'avesse fatto il governo Berlusconi probabilmente era ancora in carica. Va fatta la lotta all'evasione senza quartiere, senza se, senza ma. Vanno anche ridotte le spese pubbliche, dove... Giarda. Ministro, continuiamo a chiamarla noi. Ministro Giarda, non vuole venire a Radio 24, ci deve spiegare cosa sta facendo sulla revisione, sulla cosiddetta spending review. Se può tagliare oppure no. Mario Sprafico, buonasera. Buonasera. Allora, così con lei mi calmo, no? Mi dica una cosa, adesso c'è un'agenzia che dice che i CDS spagnoli sono volati a nuovo record, cioè neanche a novembre sono arrivati a 498 punti, il nostro spread è alto ma non è ancora, speriamo mai, a 400 punti, a 382 punti base, e i CDS spagnoli, cioè il premio sulla polizza per assicurarsi sulla Spagna, è a 498 punti. Chiariamo, a me non frega nulla del battibecco Monti, Rajoy, chi ha colpa, chi non ha colpa. L'attacco è alla Spagna? Non c'è dubbio. Io credo che per la prima volta, ed è questa un po' secondo me una delle tante assurdità di questa crisi che colpisce i debiti sovrani, ci si è resi conto che la Spagna è veramente in una situazione di difficoltà, difficoltà strutturale, ma che c'è ormai da più di un anno. Quello che si fa ancora fatica a capire è come mai si cerca di accomunare l'Italia alla Spagna, dove sono due economie diametralmente opposte e soprattutto con delle criticità diametralmente opposte. Quindi è chiaro che in questo momento il tema spagnolo fa un po' paura più che altro perché c'è una situazione economica strutturale che probabilmente ci vorranno molti anni prima che si possa convertire un'economia che si è basata sulla crescita su un settore immobiliare, su settori non industriali, quindi classici di traino di una crescita sostenibile e sana, a questo tipo di conversione. Quindi è molto difficile in questo momento dare delle valutazioni. Pensare però che la Spagna possa avere dei problemi ulteriori e quindi entrare in una situazione di crisi molto più profonda, questo io lo escluderei. Purtroppo i mercati in questo momento non hanno niente su cui, oserei dire una parola brutta, giocare, e purtroppo i mercati internazionali vedono ancora la situazione del debito sovrano e soprattutto dell'area euro come un elemento per incursioni speculative che ahimè non fanno bene chiaramente all'Italia, che si trova in una situazione diametralmente opposta. Lei tra l'altro è il direttore investimenti di Schroders Italia, quindi insomma, vede la situazione anche sui movimenti dei grandi capitali. Però una cosa, Sprefico, io non ho capito: la Spagna è diventata, come lei diceva, insomma, pur non avendo prospettive di grande peggioramento, si concentra lì la speculazione. Noi abbiamo detto che l'Italia la sta seguendo a ruota perché le indecisioni non tanto del governo ma della maggioranza che lo sostiene sull'articolo 18, sulla riforma del mercato del lavoro, gli articoli del Wall Street Journal, del Financial Times, Monti dice anche l'intervista di Emma Marcegaglia sul Financial Times, insomma il paese ha dato un'immagine di essersi già rilassato dopo che lo spread era sceso sotto 300 punti. La convince questa analisi oppure noi stiamo seguendo semplicemente la Spagna al di là di quello che facciamo noi? Ecco, mi convince fino a un certo punto. È vero che c'è stato un deficit sia di comunicazione sia appunto anche di fatti, perché obiettivamente ci siamo un po' arenati su una serie di soprattutto di annunci che erano stati fatti, di velocizzazioni, soprattutto la riforma del lavoro, quindi e soprattutto anche riguardando dal lato delle spese, quindi ecco quello che citava lei prima della spending review, non ci sono novità. Però questo è un elemento secondo me non caratterizzante di questa situazione sull'Italia. Quello che ci sta in questo momento portando ad avere questa grossa volatilità è solo il tema della Spagna, quindi ancora di vedere da parte dei mercati internazionali questo stereotipo Italia-Spagna come se fossero due elementi che sono veramente congiunti, che sono, ed è questo uno degli obiettivi che secondo me devono... Ecco, allora se appunto c'è uno stereotipo che unisce Spagna e l'Italia, oddio, gli spread italiani sono ancora più bassi, 30-40 punti oggi rispetto a quelli spagnoli, mentre nel periodo peggiore delle ultime settimane del governo Berlusconi noi eravamo sopra di 50 punti anche la Spagna, cioè venivamo considerati più rischiosi della Spagna, adesso leggermente meno. Dunque Mario Sprefico, mentre saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche la corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Adriana Ceretelli. Buonasera Adriana. Buonasera. Mario Sprefico, l'impressione, dicevo, è che la Spagna, l'Italia si siano, non dico un pretesto, ma un facile varco per attaccare quella che è la debolezza della politica dell'area euro. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Il tema è ancora l'euro, in queste sue rigidità, in queste sue differenze, ma soprattutto nell'esperienza dimostrata nel risolvere la crisi greca, che è durata 2 anni. Cioè questa strategia quasi di dover risolvere le situazioni di crisi solo dopo che i mercati sono precipitati è molto tedesca come secondo me strategia. Quindi il timore dei mercati è che ancora una volta si arrivi a una caduta per poi eventualmente prendere dei provvedimenti. Non c'è una strategia della prevenzione e questo è uno dei temi che chiaramente soprattutto investitori internazionali al di fuori dell'Europa vedono molto come terreno fertile per incursioni speculative. Adriana Ceretelli, che voi conoscete perché è stata spesso nostra ospite, ha scritto ieri, io lo ricordavo anche in onda, sulla prima pagina Sole 24 Ore, esemplare, cioè io condivido, te lo farei leggere tutto, fatti fare l'intervento Adriana, però non abbiamo tutti questi minuti, esemplare sulla Germania. Allora, in questo momento la Germania, Adriana, ha tassi praticati dalle banche, quindi tassi a cui presta denaro e ottiene denaro inferiore allo zero, cioè il valore reale è negativo. Le esportazioni vanno bene perché l'euro è fermo a quota 1,30. Non è che l'unica che si sta avvantaggiando di questa crisi è proprio la Germania? E ci puoi ricordare l'appello che tu facevi ieri, visto che appunto non posso leggere tutto il tuo bellissimo fondo? Beh, sicuramente la Germania lucra sulle debolezze dell'euro. Con questo non le piacciono necessariamente, perché naturalmente le debolezze dell'euro implicano che prima o poi ci possano essere dei nuovi interventi di salvataggio dei paesi e quindi questi sono costosi, e quindi il Fondo Salva Stati permanente non è stato dotato di risorse diciamo che possano fare dormire tutti i sonni tranquilli. Quindi sotto questo aspetto alla Germania non va bene, soprattutto non va bene alla Merkel, che vuole arrivare alle elezioni del settembre dell'anno prossimo senza dover di nuovo ricorrere, cioè allargare i cordoni della borsa. Detto ciò, la politica tedesca è una politica, secondo me, totalmente fallimentare, nel senso che invece di unire, divide l'euro e soprattutto è una politica che con questo rigore a senso unico, che punisce tutti coloro che si ritrovano in una situazione di vulnerabilità, non riesce comunque nemmeno ad ottenere gli obiettivi che si propone, e la ragione per cui i mercati attaccano oggi diciamo i paesi più deboli, che sono i soliti mediterranei con la Francia che si sta aggiungendo, la ragione è proprio questa, che i mercati che prima avevano in qualche modo plaudito all'austerità, oggi si rendono conto che questa austerità rischia di diciamo di essere controproducente, nel senso che l'Europa è già in recessione, l'austerità non fa altro che accentuare la recessione, le riforme diciamo sul breve termine non fanno crescita, anzi magari la deprimono pure, riescono a fare crescita nel medio e lungo termine, ma il problema è come ci si arriva al medio e lungo termine quando la recessione si avvita su se stessa, e dunque il rigore si avvita su se stesso, in quanto i nuovi patti di stabilità e di austerità prevedono sanzioni automatiche per chi non intervenga subito in caso di deviazioni. Quindi ci si ritrova di fronte a un'Europa che precipita, a una Germania che va meglio, ma poi va meglio fino a un certo punto, perché alla fine anche le sue emissioni di Bund con diciamo tassi molto bassi sono stati rifiutati in parte dai mercati, ai quali non sta più bene questo tipo di politica. Al tempo stesso, se prendiamo la BCE, certo le grandi iniezioni di liquidità ci hanno comprato una tregua per diciamo cosa, 2 mesi, ma forse nemmeno, e poi che cosa si fa? Adesso si dice potrebbero tornare, la BCE potrebbe tornare a comprare i titoli del tesoro, ma già sappiamo che i tedeschi sarebbero contrari a questo. La liquidità immessa nel sistema non è servita a rilanciare l'economia, è servita diciamo a frenare la corsa degli spread, ma le banche che hanno comperato i titoli, non so, spagnoli, italiani, eccetera, eccetera, oggi sono nel mirino perché hanno in portafoglio dei titoli che si ritiene possano essere non sostenibili, in quanto appunto la recessione sta trascinando i paesi come l'Italia, come la Spagna, eccetera, verso nuove manovre, inevitabilmente, cioè non so quando, in estate, in autunno ci saranno nuove manovre, perché la recessione sarà più grave di quello che si dice, per cui si dovrà intervenire. Quindi è un gioco che secondo me fa male a tutti, anche alla Germania, ma soprattutto naturalmente a noi poveracci che siamo su quella barca. Ho messo anche l'applauso, Adriana, perché non è mai successo. No, tranquilla. Ti ho messo l'applauso perché condivido ogni singola parola, se lo dico io poi diventa una palla. Certo, ci hai tirato una cosa che io e Salvatore Padula qui, anche il gufo si è toccato, se posso permettermi, perché la manovra finanziaria correttiva entro l'estate proprio non ce l'aspettavamo, però condivido tutto quello che hai detto e ti chiedo una cosa, di rispondermi con una battuta, perché poi ho il traffico. Salvatore Padula e la borsa, la Germania che ci sta portando a mio avviso storicamente a quello che fece lei da sola nel 29, cioè si fece mai da sola e poi sappiamo come andò a finire con il Partito Nazionale Socialista, per un rigore che si era autoimposto, bastava che facesse un po' più come Einaudi e Roosevelt, forse, vabbè, un'altra storia, la Germania la capirà solo quando inizieranno a non esportare più verso l'area euro? No, purtroppo neanche quello possiamo dire, perché la Germania si sta molto globalizzando anche nell'export e diciamo che sta dirigendo molto dei propri prodotti verso i mercati asiatici e cinesi. Io guardavo proprio i dati, le esportazioni tedesche oramai per quasi la metà sono dirette in Asia e Cina soprattutto, mentre allora le nostre quote sono ridicole, noi abbiamo il 7%, la Francia il 10%, quindi secondo me la prospettiva, adesso non voglio fare proprio il super gufo, ma io credo che la Germania cerchi di consolidare intorno a sé un'area. Che si faccia l'euro forte, noi prenderemo l'euro debole, poi invanderemo la Germania di prodotti nostri con l'euro a metà, che dobbiamo fare? Non si può morire. C'era una canzone che diceva era meglio morire da piccoli, no? Che poi non posso continuare con il resto. Non si può continuare a sacrificare il paese, la politica, tutto, perché la Germania deve esportare in Asia. E già si è preso un cambio euro-marco a lei assolutamente favorevole, fatemela dire tutta, rispetto a noi, e già le abbiamo pagato, sovvenzionato una riunificazione che costa 1.200 miliardi di euro, tutti i paesi d'accordo, i portoghesi piccoli e scuri, i greci che bevono troppo olio, cioè, tutti d'accordo che la Germania dovesse riunificarsi. Adesso, se non ce la fa, se non gliene frega nulla, esca dall'euro, faccia l'euro Uber Alles. Adriana, grazie. Allora, Mario Sprafico, immagino, perché mi sembra così ragionevole, che anche lei condivida l'analisi di Adriana Ceretelli. Completamente, la condivido, cioè, completamente. Non so, gliela traduciamo in tedesco, gliela mandiamo in Germania, qualcuno se la legga. Perché, insomma, se non hanno capito che di sole tagli qui l'Europa si sta avvitando, la frase chiave secondo me è l'avvitamento, tu tagli. Era Marx che lo diceva, mi dispiace citarlo, no? Nel secondo o terzo modello della crisi del capitalismo, tu tagli, la gente ha meno soldi, spende di meno, i negozi vendono di meno, le imprese vendono di meno, licenziano ulteriormente, tu hai sempre meno soldi, e si chiama la crisi a spirale. Mi dà delle prospettive però sulle tensioni future che voi vedete? Titoli di Stato. Beh, non le sono... prospettive sono, io credo, ancora nell'attendere cosa succederà dalla parte delle autorità monetarie, quindi dalla Banca Centrale. C'è un'altra emissione della BCE, non Mario Draghi salva tutti di nuovo? Purtroppo non c'è dubbio, io credo che anche la BCE attraverso, purtroppo con dei bizantinismi, perché anche in questo caso bisogna secondo me un po' svicolare da quella che è la rigidità della Germania, quindi non parlare come vero e proprio quantitative easing, ma parlare di aste a medio-lungo termine, a 3 anni, l'RTO, quindi cercare di trovare questi nomi per evitare di parlare di acquisti diretti di titoli, quindi su stampare liquidità e buttarla sul mercato. Però purtroppo la via di uscita io credo che sia ancora legata alla politica monetaria, con questa priorità nel salvare, chiaramente nell'aiutare gli stati e anche aiutare le banche, ma soprattutto l'economia reale. Purtroppo non vedo via di uscita in questa contrapposizione di proprio politica. Beh, via di uscita ce n'è una sola, che o la Germania esce dall'euro, se va avanti, o la Germania esce dall'euro o l'euro esce dalla Germania. Questa è la via di uscita, cioè, per eccellenza. Se andiamo avanti così, se tanto bisogna affossare i PIL e avere una recessione anche nel 2013, di che cosa stiamo parlando? Vedo alcuni messaggi al 349-238-6666 che dicono: allora boicottiamo i prodotti tedeschi, insomma aspettiamo un attimo perlomeno, dai, e poi facciamo pagare il doppio ai tedeschi quando verranno quest'estate al mare da noi, visto che vogliono l'euro forte. La borsa. Io direi una cosa, però, invece di far pagare doppi tedeschi, chiediamo a Mario Monti intanto che vada a rompere le palle a Bruxelles, alla Germania, perché sennò ci sfiliamo con la Spagna, con la Francia. Sarkozy, appena dopo il 7 maggio, quando ha le elezioni, se viene rieletto, deve cambiare rotta anche lui, perché la Francia è il prossimo paese, gli spread sono a 140 punti, non è che può stare tranquillo. Allora, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Oh, che puntata oggi. Meno 3,43%. Abbiamo ampiamente detto che cosa è successo, le banche che hanno molti titoli italiani, le banche italiane con titoli italiani hanno perso tantissimo, Popolare di Milano meno 8,17, Emilia Romagna meno 7,23, Banco Popolare meno 7,12, Ubibanca meno 6,60, Unicredit meno 6, Monte dei Paschi meno 5,30, Intesa San Paolo meno 4,80, Generali meno 4,10, Esti Microelectronics meno 5,88. Percento. Unicredit è stata anche sospesa per eccesso di ribasso. Sì, Unicredit è stata anche sospesa per eccesso di ribasso, come d'altra parte nel corso della giornata anche altre banche sono state brevemente sospese. diciamo oggi era un pochettino il battesimo anche per il nuovo presidente Giuseppe Vita, che è stato designato ieri. Il titolo però ha perso, gli operatori comunque ci segnalano che più che la questione delle nomine e in senso più allargato quello proprio della governance dell'istituto, che è uscito dall'incontro delle fondazioni di ieri, sono stati gli elementi che hanno fatto perdere terreno a tutte le altre banche che oggi hanno pesato, ed è questa un po' la ragione di questo meno 6,01%, che è sostanzialmente in linea con quello che hanno fatto registrare le altre banche. Dicevamo con Guido Maurino, al di là del calo generalizzato di tutti i titoli bancari, con Unicredit sospesa anche per eccesso di ribasso, per chi si fosse appena messo in collegamento, meno 3,5% l'indice, meno 8% la Popolare di Milano, meno 7,20% la Popolare Emilia Romagna, meno 7,12% Banco Popolare, meno 6,60% Ubibanca, meno 6% Unicredit, meno 5,30% Monte dei Paschi, meno 5% Mediobanca, meno 4,80% Intesa San Paolo. E poi Estima Microelectronics perde 5,88%. Qui c'è di nuovo Nokia? Sì, diciamo che in realtà oggi era difficile fare grandi ragionamenti. Però Finmeccanica ha fatto più 2,60%, lì c'è Ansaldo Breda. Sì, qui invece sì, qui c'è la notizia, perché appunto sembra che stia entrando nel vivo la cessione di Ansaldo Breda, ma anche del 29% di Ansaldo STS, che erano... sia Ansaldo STS che Finmeccanica sono stati due titoli che almeno fino alla fine hanno provato a reggere. Poi Ansaldo STS proprio sul finale ha ceduto lo 0,61%, mentre Finmeccanica si è mantenuta in territorio positivo guadagnando il 2,57%. Do anche gli altri titoli, ma come tu ricordavi, oggi in una ondata ribassista, come dicono i tecnici, era difficile tenere in piedi qualcosa. E allora, oltre a quelli già ricordati, cito Exor, quindi la finanziaria che controlla Fiat, meno 4,70%, Buzzunice c'è meno 4,60% come Atlantia, il 4% l'ha perso Tenaris, il 3,70% Fiat intesa come auto, il 3,60% Saipem, ma anche Telecom Italia, il 3,30% Impregilo, il 3% Mediaset, il 2,80% Salvatore Ferragamo, il 2,70% Prismian e anche Azimut di calo, il 2,60% l'automatica, ma anche Mediolanum e Snam. Chiudiamo con Enel, meno 2,5% come Enel Green Power, Terna meno 2,2%, Pirelli meno 2% come Parmalat ed Eni. Migliori e peggiori in assoluto: Pramac meno 22,5%, Banca Generali meno 8,70%, tra i migliori BSC Speakers SPA, ma cos'è? Più 6,16%. Guarda, è una piccola società. No, non volevo metterti in difficoltà, non l'avevo mai sentita, BSC Speakers. No, è una piccola società quotata, adesso non mi ricordo tecnicamente cosa fa. La troveremo noi su Google, nel senso che, no, mi interessava perché Speakers, magari ci prende tutti quanti lì. Mondo TV più 6,08%, Premafin più 3,93%, ma novità su Fondiaria, no? No, in realtà c'erano alcuni calcoli che sono stati fatti oggi da alcuni analisti, per cui sembra che Premafin in realtà con il nuovo differenziale di spread del BTP, che comunque è sceso, dovrebbe avere alcuni benefici, per cui era sottovalutata, ma niente di nessuna notizia particolare, diciamo, sul riassetto di Gresti, ecco. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buon fine settimana a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa. Noi adesso partiamo con un altro bel capitolo che va dagli esodati agli aiuti che si stanno fornendo agli imprenditori disperati. Purtroppo altri casi di suicidi oggi. Una brevissima risposta sulla Germania. Io non ho mai detto che la Germania debba diventare il capro espiatorio dei problemi che non sappiamo risolvere in casa nostra, ma Spagna e Italia hanno fatto le manovre. La Spagna ha varato due manovre che sono le più grandi da quando è finito il franchismo, manovre che hanno un impatto recessivo. Quello che abbiamo detto semplicemente è che non bastano le manovre, occorre anche dare un'immagine ai mercati che l'Europa si vuole veramente tenere assieme, l'euro si vuole tenere assieme, e iniziare a capire che se non si dà qualche politica anche per la crescita, Eurobond, investimenti infrastrutturali, allargare i cordoni, il fiscal compact, sarà un massacro. Chiedere ai paesi di ridurre, di portare il deficit al 60% in 20 anni vuol dire che noi dobbiamo fare una manovra da 45 miliardi di euro ogni anno solo sul deficit, okay? Questo abbiamo detto, che non bastano i tagli, non che non servano i tagli, che non bastano i tagli, un po' diverso. esodati. C'è chi dice cambio programma perché ormai preferisco solo musica italiana, va benissimo. Anche noi parliamo di musica italiana, di un altro tipo però, musica economica italiana. Mi dispiace se il programma parla poco di economia. Secondo lei, Salvatore Padula, buonasera. Buonasera. Allora, Salvatore Padula è una persona di una calma che io invidio, perché invece io ho un comportamento più focoso. E nel leggere quello che è scritto oggi ho detto: sei veramente arrabbiato. Che cosa ti ha fatto arrabbiare sugli esodati? Ma mi ha fatto arrabbiare l'idea che su un problema così... In prima pagina su Sole 24 Ore, commento. Certo, sì. Mi ha fatto arrabbiare l'idea che su una questione così delicata e che sta... in qualche modo creando disagio, drammi alle persone che non capiscono bene quale destino avranno davanti, il Ministero del Lavoro, che diciamo, ha istituito un tavolo tecnico per stabilire quante sono i lavoratori ai quali continueranno ad applicarsi le vecchie regole di pensionamento, cioè ai quali non si applicherà la riforma. La riforma, no? Che aumenta l'età pensionabile. Che aumenta l'età pensionabile. Sono quelle persone che si trovano in situazioni particolari, cioè sono situazioni che, non so, persone che stanno o in mobilità lunga e breve, oppure che sono a carico dei fondi di solidarietà, oppure che sono, diciamo, i cosiddetti esodati, cioè quelli che hanno accettato incentivi da parte delle aziende per lasciare il lavoro in prospettiva di percepire presto un assegno di pensione, e che invece con la riforma vedono questa possibilità spostarsi in avanti, a volte anche di 5-6 anni. Ecco, il Ministero doveva quantificare, stabilire quanti sono queste persone, e secondo me l'ha fatto in modo poco trasparente. Io non dico che e ci ha detto che queste persone sono circa 65.000 soggetti. Io non so ovviamente se i dati sono giusti o non sono giusti, vedo che insomma per i sindacati sono sbagliati, vedo che Bersani oggi ha detto si tirano fuori i numeri giusti, io questo ovviamente non lo so, però so che l'operazione è stata condotta con poca trasparenza, e questo mi ha fatto un pochino, diciamo, arrabbiare. E tra l'altro su questo, mercoledì scorso l'INPS, per nome del suo direttore generale, aveva detto nei prossimi 4 anni saranno 130.000 esodati. I sindacati dicono 350.000. Stanno arrivando appelli a noi su via SMS, su Facebook. Ma non so, aprite una pagina Facebook, ma fate mandare una mail. Ci sarà un modo nel 2012 per sapere quanti lavoratori, manager, dipendenti hanno accettato l'uscita prepensionata, insomma, dal lavoro, sapendo che mancavano 2 anni della pensione? Di solito l'azienda copre quei 2 anni, adesso faccio per fare un esempio. E dici basta che tu esca il lavoro, e poi se però te la alzano di altri 2 anni, tu fai 2 anni, che facciamo? Vendiamo gelati? Non so, chiedo. Non c'è un modo, come mai è così complicato? Ma guarda, io penso sia complicato perché in molti casi questi accordi sono, diciamo, legati a intese di tipo sindacale, e quindi ce n'è traccia anche diciamo nell'attività appunto del sindacato, spesso ce n'è traccia anche nel ministero perché il ministero ha partecipato a questi tavoli. Molte volte invece si tratta di accordi individuali, e quindi è molto più difficile andare a come dire, a censirli e a quantificarli. Però se posso dire una cosa velocemente, spero di essere chiaro perché è delicata. Io ho capito alla fine a che cosa si riferisce questo numero 65.000 di cui ci ha parlato ieri il ministro Fornero. Cioè queste sono le persone che hanno diritto all'applicazione delle vecchie regole di pensionamento sulla base di quello che stabilisce la riforma delle pensioni, che non è che diceva che a tutti si potevano applicare, solo se questi lavoratori avevano determinati requisiti. Faccio un esempio: tu puoi essere in mobilità, no? Però per essere un esodato era necessario che tu raggiungessi il requisito per la pensione con le vecchie regole prima che la tua mobilità finisse. No. Quindi allora il Ministero cosa ha fatto? Quelli che rientrano in modo proprio stretto, rigido dentro le regole fissate dalla legge sono 65.000. Il problema è che questa platea è molto più vasta perché ci sono tante situazioni che io ho definito borderline, cioè gente che magari invece di maturare il requisito il 30 dicembre o il 20 dicembre 2013 lo matura il 1 gennaio 2014 e questo qui è fuori e non è stato censito dal Ministero del Lavoro. Però secondo me lì vengono in soccorso i dati dell'INPS, cioè l'INPS quando ieri o l'altro ieri l'altro ha parlato di 130.000 persone probabilmente ha indicato un numero che più si avvicina alla realtà. Sì, ho capito, realtà. Ma qui stiamo parlando di numeri come se stessimo per vendere, non so, yogurt, ma la differenza tra i 65.000 della Fornero e i 130.000 dell'INPS in 4 anni è, oltre che essere il doppio, significa sì. 65.000 padri o madri di famiglia intorno ai 50-60 anni che rischiano di avere 1-2 anni senza pensione o 3 o 4 senza salario. Poi il ministro dice, massimo rispetto, l'abbiamo avuto ospite prima che facesse il ministro decine di volte, ma dice è inutile che mi critichino i giornalisti perché non è mica facile, abbiamo avuto mandato in onda questa intervista, non è mica facile trovare il numero degli esodati. Allora, bisogna pensarci prima, a meno che non si debba mai disturbare il re. È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Oh, beh! Diciotto minuti, ultima parte di Focus Economia, in una puntata, devo dire, difficile, perché tra IMU, esodati, accise sulla benzina, borse impicchiata, spread, io non so. E chiudiamo nella maniera che proprio in chi vi parla, in chi conduce questo programma, è la maniera più difficile, perché tocca tornare a parlare degli imprenditori disperati. Allora, adesso cercheremo di fare in maniera costruttiva, cioè dando anche degli aiuti. Dico una cosa però, qualunque persona che ci ascolta e che avesse anche vagamente un'idea di ricorrere a misure estreme, ma vada davanti al Parlamento, piuttosto si leghi lì, ma non compite gesti che poi sono irrevocabili, perché veramente non ha senso morire per le tasse o morire per i debiti. Uno piuttosto si faccia portare dentro, faccia qualunque cosa, ma non ha senso quello a cui stiamo assistendo. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Oggi si è lanciato sotto un treno un dirigente d'azienda disoccupato da alcuni mesi, lascia una moglie e una figlia di 13 anni. Ieri un imprenditore agricolo si è ucciso in Trevigiano e 2 giorni fa si è suicidata la moglie di un imprenditore sempre in provincia di Vicenza, cioè sempre in Veneto, l'imprenditore dell'edilizia in difficoltà. 2 giorni fa anche un suicidio in Aretino. 27 anni sommerso dai debiti, 18 suicidi per debiti tra imprenditori, artigiani e lavoratori in questi 3 mesi. E nasce l'associazione dei familiari degli imprenditori uccisi, come abbiamo avuto l'associazione dei familiari delle vittime del terrorismo, della strage di Bologna, della strage di Piazza Fontana. Ormai siamo arrivati al punto che nasce anche l'associazione dei familiari degli imprenditori suicidi. Io ho pochi minuti, però vorrei sapere da Stefano Zanatta, presidente della Confartigianato Asolo Montebelluna. Di nuovo buonasera Zanatta. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a Carmelo Finocchiaro, presidente di Federcontribuenti, che ha lanciato un esposto alla Procura di Roma. Poi ce lo racconta Zanatta, le telefonate, numero verde 800 130 131, ripeto 800 130 131, per assistenza psicologica. Poi c'è anche il sito www.terraferma-icr.it dell'associazione Imprese che Resistono. Le telefonate, Zanatta. Allora, le telefonate, noi abbiamo aperto questo sportello il 2 di marzo. Le telefonate purtroppo sono molte, all'incirca di media una o due al giorno. Oggi però c'è stato il picco, praticamente chi chiama ci chiama da tutta Italia, non solamente dalla regione Veneto, dalla nostra provincia in cui noi siamo nati per far supportare più che altro questi. Noi cerchiamo di dare ascolto a tutti, anzi lo diamo, cerchiamo di capire le problematiche, perché poi per ogni situazione bisogna entrare nel contesto e per entrare nel contesto ci vuole tempo e quindi pazienza, ascoltare, capire, verificare qual è la situazione esatta. Ecco, questo è importantissimo da farsi. Allora, io ieri, quando ho sentito del suicidio qua nella nostra provincia, è poco distante anche dalla nostra sede, mi sono in qualche modo sentito svuotare dentro. Ho detto, forse, anzi, sicuramente non facciamo abbastanza, forse non riusciamo a fare neanche niente, se non più di dire parole che poi si perdono al vento. Io ho fatto un appello così gridato alla politica. In questo momento la politica non si vede, manca. Siamo sotto elezioni amministrative, solitamente c'erano i politici che uscivano scoperto per farsi vedere, per farsi notare. Oggi non ci sono neanche questi. Allora io non so cosa hanno paura. Non lo so. Noi abbiamo lanciato anche dei messaggi, delle proposte, abbiamo fatto un qualcosa in più rispetto dell'urlo. Abbiamo detto facciamo la moratoria sui studi di settore per il tempo che serve necessario uscire da questa situazione. No. Facciamo un qualcosa affinché i pagamenti non superino i 30 giorni, tutte parole al vento, tutto tempo perso, non so più cosa dire e cosa fare. Torno a ripetere, noi siamo impotenti ormai a tutto ciò che ci sta succedendo, che stiamo ricevendo, ci stiamo dando da fare. Guarda, io ho un'azienda, è un mese che non sono presente nella mia azienda perché cerco di dare aiuto e supporto ad altri imprenditori. Fortunatamente ho delle persone nella mia azienda che in qualche modo superiscono anche la mia assenza, ma non è che io possa continuare in questo modo qua. Io chiedo veramente, adesso sono io che chiedo aiuto alle istituzioni affinché ci diano una mano, non si nascondano. Qui non bisogna ascoltare, questo è un aspetto sociale fondamentale se vogliamo tornare a crescere, ad andare avanti, perché è un aspetto che riguarda tutti, non riguarda il singolo, non riguarda poche persone, riguarda tutti. Se noi in questo paese, in questo territorio abbiamo creato la piena occupazione è per merito delle aziende, non per merito di qualche divinità venuta da chissà dove, per merito di uomini, di donne che si sono impegnati. Oggi questi uomini, queste donne dobbiamo aiutarli. È questo che dobbiamo fare. Finocchiaro, voi avete fatto un esposto alla Procura di Roma come Federcontribuenti? Noi questa mattina abbiamo presentato un esposto proprio ne prendiamo atto tristemente, perché la politica in questi mesi non ha sentito minimamente il bisogno di ascoltare il paese reale che muore. Il paese che muore è il paese degli imprenditori, ma il paese anche dei lavoratori. Noi avevamo individuato, come hanno individuato in gran parte, i problemi che affliggono il paese. Sono le banche, sono i ritardi nei pagamenti e anche dei pagamenti della pubblica amministrazione, è Equitalia, è la burocrazia, tutti i problemi individuati e risolvibili, ma la politica si ostina a non affrontare queste questioni. Siamo stati costretti a presentare questa denuncia alla Procura della Repubblica. Noi non riusciamo più ad aprire la mattina le mail dell'associazione o i numeri di telefono perché riceviamo decine di email, di telefonate di gente disperata. Questo paese non può morire. Io sono felice che lei ha fatto quell'appello quando abbiamo iniziato. Questo paese deve vivere, per vivere servono le risposte e sono risposte anche tutte risolvibili. Risolvibili se intorno ai tavoli si chiede il paese reale, a ragionare con la politica che non può pensare solo a tassare. A tassare anche quando non si ricevono i pagamenti, perché questa è la triste situazione d'Italia. Io fatturo 100, ne incasso 10, lo Stato pretende da me le tasse per 100 e così via tutte le varie situazioni. Equitalia, non posso pagare, sono in difficoltà, la cartella da 100 diventa 200, tutti i problemi reali, le banche revocano i fidi o non finanziano le attività produttive, sono tutti problemi. Voi avete fatto un esposto citando alla Procura di Roma il reato di stalking, cos'è che ho letto? Sì, no, esattamente, abbiamo citato il reato di persecuzione, dunque di stalking. Cioè di noi stalking. Riteniamo che in questo momento ci sia questo reato nei confronti alla parte sana del paese che produce, e che materialmente qualcuno deve affrontare di fronte al voto della politica, la magistratura indaghi, vada a fondo a vedere rispetto al potere centrale, ma anche rispetto al potere periferico, alle burocrazie, di chi sono le responsabilità. Non è possibile, noi stamattina abbiamo presentato questa denuncia ed eravamo a 18 morti, e ne ha annunciato un altro, siamo a 19. Non vorremmo assistere domani al 20esimo, al 21esimo, la gente deve vivere, la magistratura intervenga subito. Allora, la mia non era un'incitazione a compiere un reato, perché andare a protestare al Parlamento non è un reato. Ringrazio Stefano Zanatta e in bocca al lupo a tutti i piccoli imprenditori e gli artigiani. Un augurio di buon fine settimana a tutti da Sebastiano Barisoni, un ringraziamento a Mauro Del Cono e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Prima di finire però, l'appello che stiamo lanciando alla politica, ai partiti, un appello che si lega direttamente con quanto abbiamo appena raccontato. Passate un buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Ai partiti che a fine luglio riceveranno quasi 170 milioni di euro di rimborsi elettorali, perché non li devolvete ad un fondo per i piccoli imprenditori in difficoltà? Aiutereste loro e i loro dipendenti, tornereste vicini ai vostri elettori. Radio 24. La passione si sente.